questi saluti vado a far tardo. E qualcuno. CQ10, c'è qualcuno in ascolto? Yeah. Avanti. Gianni. Sì, io ho chiesto per farlo stare qui se tu. Allora, non si sente benissimo. Oh, qualche portante, qualche tizio, qualche pernacchia. Allora, siamo in crisi anche noi. Sì, aspetto che l'ha fatto di più. Ma cosa, che ha finito di mandare? Ma poi che ha calcolato che finisce come? Attenzione, Natalino, cambio! Ehi, ti stai innescando, devi abbassare un po'. Stai innescando perché c'è la mia apparecchia attaccata, questo non ho dimenticato l'altro apparecchio. Come va? Come va? Tutto ok, tutto ok. Anda bene Meda. Questo c'è il tacchetto. Ehi, già l'ho visto. Vabbè, là, già, se devi uscire, sicuro, è tanto qua è venuta gente, non posso rimanere. Vabbè, là, pazienza. Ma vabbè, là, era solo per accendere l'apparecchio, per vedere se c'era qualcuno. Mi l'ho tenuto da prendere per fare il sistema. Dalle 2 alle 9, se tu vuoi. Magari lo avresti, io l'avrei fatto, che sono, già lo sai. Magari. Potessi lavorare. Rinnovi me travaglio, cosa? Comunque ho rinnovato la patente, ho rinnovato già. Allora sai che bisogna pagare 7 euro per ritirarla. Sì, perché te la mandano dopo 4 giorni a casa per assicurata e bisogna pagare 6 euro la prenda per te, 6 euro 86 euro da. E ha già pagato 80 zecchi per poterla rinnovare. È tutto ok, Nicolato, che abbiamo detto. Tutto ok. E me le hanno lasciate fino a 65 anni, perché la C si può tenere fino a 65 anni. A me me le ha rinnovate tutte, io ho la D. Speriamo che il comune mi chiami pagando nei bozzurani da patenti. Perché sennò intanto si cucino nel rinnovo quando mi scade, tanto me la prendono d'ufficio a 65 anni. Infatti, ma non devi fare nessuna cosa tu, è automatico. Cosa? Automatico te la prendono, devi essere tu a richiedere di abbassarti le patenti. No, per limiti di età te li prendono, le patenti superiori, a 65 anni o a 66 li siano usati. A 65 comunque. Se le prendo perché hai passato il limite di età. Io mi faccio dare la B, mi faccio dare quella della macchina, la patente vecchia me l'hanno lasciata, ma il proprio rinnovata. Ho capito. Ora attenzione Natalino, cambio. Sì, a cambio. Me la, comunque, sì, me l'hanno lasciata la vecchia, così c'ho il ricordo. E mi lasceranno anche l'altra. Mi lasceranno. Me l'hanno lasciata la vecchia, il ricordo che c'avevo la D. Te l'hanno fatta il giorno del tuo compleanno la scadenza. Sì, mi scade il giorno del compleanno la prossima, questa qui che mi arriva. E anche a me hanno fatto lui, perché così se ne ricordi, capito? Lo stanno facendo a tutti. Infatti adesso anche il portodanni quando lo rinnovo sicuramente mi scadrà il giorno del compleanno. Va bene, Natalino, tutto bene che tutto finisce bene. Se a me mi danno la pensione io ti lascio il lavoro. Di una vostra! Ciao, Natalino. Poi ci vediamo tutti sudati, era solo un sogno. Ehi, che mi arrivi qualche lavoro? Certamente mi si cresce. Vabbè, là. Salutami tutta la copricola. Statevi bene, buona domenica. Ok, va bene, ritieniti salutato. Mica ha fatto gli auguri su Facebook a quello là, quello che c'ha la fettolina col nome. Ah, già l'ho visto, ci hanno messo, ti piace. Ciao, ciao. Ah, ciao, l'hai visto il ringraziamento con la tua no, non ci ho fatto caso. Allora, ci ho messo a lui con la tua fuori, c'è scritto, ringrazio, ringrazio coloro che hanno fatto gli auguri, coloro che hanno fatto gli auguri. Aspetta. Gianni, tanti auguri da, anche da parte mia per Tyson. Ah, sei contento. Hai visto il regalino che gli ho fatto, che bello? Sì, è bellissimo, non bello, bellissimo. Sempre nel dimitri del bus, grazie. A me ok, dai, ci sentiamo, io chiudo tutto quanto qua, che c'è gente. Non si può modulare, mi dicono di spegnere, ragazzi. Ciao già, tanto qua non c'è nessuno, un canale di morti è diventato. Perché siete cuova lì siete. Vai, ombriacone pratico. Attenzione, Lucariello, se ascolti il doppio rum cambio. Siete una massa di cuocuomani, ecco perché la gente non entra, perché siete cuocuomani. Allora. Ma la Priscilla tu non mi devi passare. Io sono a casa, da presto, perché devo fare delle commissioni da 25. E gli altri mi accompagnano a casa. E sono da presto, dalle 2:30. Che scappa? Sì. Siamo a divertirci. Ah, ragazzi, c'è un mal di gola, mi sento male. Sono sempre lì, sa. No, quello di ieri a Vega Stelletta. Il venerdì vado lì al solito circolo. Quello che stava cacciando era la carità. Vabbè. Però che è fatto per divertirsi, no? Per far le gare. Ce ne viene gente brava, che atta. Inganna, no? Stavo facendo qui, stavo qua, veramente bravo. Me lo posso immaginare. Sto locale ci mangia, si beve, cosa che c'è da fare, già? Ti ha agurito, ti ha tutto più agurito, dai. Un locale che c'è praticamente, è visto perché era un po' più agurito. Vai, c'è di più. E poi cosa prima ho capito. Siamo di destino, tutto bene. Però a me mi piace cantare certamente. Scengo sempre sul campo, un bar. Ah, vabbè, io... Se me la faccio qualche cartoncina. Diciamo sassarese, dai, più sassarese. Emanuela canta, non abbiamo lei canta un po', neanche Marco, hanno fatto un duetto il giorno di incontro a Natalia, no, cantano tutti, anche Marco canta un po' per la voce. Beh, se piace già, a chi piace, cioè anche se è appassionato, no? Se non sei appassionato non ce la fai, no? Sono il buco. Mi piace dopo una campana per la vita. Mi piace cantare, sono cantore, sento, conosco molto, eccetera, però sono la stessa cosa, la voce. Vado a amici, poi non è che io... Vi saluto, dai, che io sto uscendo. Ciao Luca, ciao Natalino. Buona domenica. Sì, ciao già, ciao Natali, ciao. Oh, prova. 3 radio. 1, 2, 3 radio. Prova. Oh, oh. 1, 2, 3, prova. Passaggio. vabbè, vicinanza non cambia niente. Che fischi, avanti. Cambio, cambio. Sentivo la vita mia, capito? C'ho il capo grosso, come mi ha fatto Claudio. È un casino bigiallo e fallo. Ma lascia bene quello, una bella modulazione. Una modifica di VAF, cioè. Non c'è la scheda colta, però. Non ho capito. Però qua non strappa, la marina strappa. La vuol dire perché c'ha... ci sono le stazionarie per quello. E Partac, come sei entrato, ora? In Partac. Ah, io ogni tanto già entro, la cosa a Sonia non l'ho più vista, ma più nessuno ho visto così, no, i vecchi amici dai, più di uno non entra più. Che chiama, avanti, cambio, che chiama, avanti, con propagazione sicuramente. Ah, io ce l'ho sempre, io tanto ti ascolto, sono lì, ma non so cosa fare. Nella quella rumo R, che cosa vuol dire, che vuol dire che vi sia, mortorio, Tattarino ce l'ha poco fa. C'era già nel doppio room e poi tutti spariti. Qua da me non prende. Beh, sarebbe il colmo. Non so, è una frequenza un po' strana, basta uno stacco da niente e non si sente uno con l'altro. Cosa hai? L'antenna autocostruita? Andava, di lusso. Ma anche la marina arrivi bene. È tutto questione di posizione. Dai, comunque la passione per il baracchino non si è mai mancata, dai. E ci sono sempre gli stessi alla fine, Gianni, Natalino, Claudio, Ghizia. Poi c'è il canale 23, e allora sono fatto un canale per i... canale lì e un canale qua, Marco, insomma, io entro ogni tanto quando ho la possibilità. Nulla avrà, nulla, mi diceva bene un televisore a casa, il televisore mio grande, perché da marina sono piccoli giù, questo è abbastanza grande. No, sabato dormo lì, dai, salgo a fare la puntura, ma poi ci riusciamo un po', andiamo a trovare degli amici, faccio due canzoni e già sta meglio, fra. Che ha sento battendo già sta e già sta ricambiato. No, e va bene giusto a Puglia e questo rimane un po' leggermente più basso, ma va bene anche questo. Io continuo a usare la vecchia radio, questa qua c'è per Typhoon, anche quello hai, ho detto anche quello hai, e l'hai procurato lo Smitter, c'erano su eBay, costavano 15 euro mi sa. Ah, vabbè, a me mi viene facile, dai. L'alimentatore con due attacchi. Attacco i fili subito, veloce. Non so dove cavo l'alimentazione. Se come 2 secondi di bomba. Ma io ce la faccio veloce. Ma dai, prova, non fra. Andrea, Brittella. Oh, Brittella.